Ingrid. Non era abituata a stare in mezzo alla gente e Rieke era gremito di volti noti della televisione, politici e giornalisti di grido. Il brusio era assordante. Chi non aveva ancora un tavolo si accalcava al bar piazzato a un paio di metri dai clienti che cenavano. Quel bar era noto come il fosso dei divorziati perché era frequentato da ultraquarantenni in cerca di un nuovo partner. Da qualche parte si ruppe un bicchiere. E poi lui ha detto che non era così che aveva immaginato la sua vita, che sognava qualcosa di più, capisci? Ha 45 anni, ma si comporta come un dodicenne. È un uomo, cazzo, non un ragazzino. Senso di responsabilità, zero. È una vergogna, commentò Ingrid scuotendo la testa e portandosi alla bocca una forchettata di pesce. Carina Felt era una ex collega dell'Afton Pressen, che 5 anni prima aveva cambiato professione e ora dirigeva una casa editrice. Da 6 mesi era impegnata in un divorzio avvelenato con il padre dei suoi 2 figli, il re delle pubbliche relazioni di Stoccolma, Gustav Hammar. Una sera, dopo aver messo a letto i ragazzi, lui le aveva semplicemente comunicato che era finita. Non la amava più e voleva più tempo per se stesso. Non c'era spazio per contrattazioni, non c'era più niente da dire. Aveva già comprato un trilocale dall'altra parte della città. Così adesso vede i bambini ogni 2 fine settimana. Non riesce a fare di meglio. Vive come un 20enne. Gira per locali con i suoi dipendenti, torna a casa all'alba e fa la figura del cretino. Una tragedia. Una vera tragedia, confermò Ingrid. Carina le faceva pena, ma non riusciva a concentrarsi sulla conversazione. Continuava a pensare a Tommy e alla Scandinavia. Era tutto pronto. Lei aveva fatto la sua parte. Ciò che sarebbe successo ormai era al di fuori del suo controllo. A quell'ora la nave doveva essere salpata e la festa in pieno svolgimento. Immaginava che Tommy fosse in piena forma, intento ad amoreggiare più o meno apertamente con Giulia. Ingrid non vedeva l'ora che fosse tutto finito. Che Tommy venisse fatto passare per un tossico e la sua fama di giornalista serio e stimato finisse nel cesso. Carina si alzò per andare in bagno e sparì nella folla che circondava il bar. Ingrid infilò la mano nella borsa per prendere il telefono, ma le sue dita trovarono qualcos'altro.